Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come immaginabile, avremo una pagina e anche ampia sul dopo Obama. C'è di nuovo Obama, ma gli impegni, le sfide, i rischi restano invariati, anzi si complicano secondo molti analisti, perché la vittoria è una vittoria di stretto margine. La battuta che in questo momento più in voga è che l'America ha preferito non votare Romney che votare Obama, nel senso che il margine è veramente stretto, e comunque Obama rispetto a 4 anni fa perde parecchio consenso. Si crea uno stallo simile, se non peggiore, a quello già visto in questi 4 anni al Congresso, con un Congresso spaccato in due, e resta, questo sarebbe rimasto per qualunque presidente americano, l'appuntamento, anche se avesse vinto Romney, quindi del 31 dicembre, data entro la quale o si trova un accordo tra Casa Bianca e Congresso, quindi Parlamento americano, per ridurre il deficit e quindi il debito, oppure in automatico scatteranno un insieme di misure, aumento delle tasse e eliminazione delle agevolazioni fiscali e di altre forme di sussidio, che avranno un impatto disastroso, stando alle stime, sul PIL americano, addirittura un calo del 5%. Lo spiegavamo anche ieri, si chiama fiscal cliff, ossia il precipizio fiscale. Se si arriva a quella data, poi c'è il precipizio fiscale. Non è chiaro come, e ne parleremo più avanti, Obama potrà ottenere un accordo che fino adesso è mancato, perché i repubblicani sono contrari non tanto al taglio di spese e di agevolazioni fiscali e anche altre forme di interventi sulla domanda interna, sono contrari a un aumento delle tasse. Su questo Romney, devo dire, era stato molto molto molto chiaro. A complicare il quadro c'è stato un peggioramento che continua della borsa. Inizialmente sembrava un effetto quasi più europeo, adesso però è decisamente l'onda lunga, arriva dagli Stati Uniti. L'America perde il 2,20% in questo momento, Milano perde il 2,20% anch'essa, Parigi -1,5% come Francoforte, Londra -1,40%. Lo dico perché questa mattina le borse erano positive, soprattutto Milano, e diciamo l'inversione di tendenza e del segno è stata molto brusca e repentina. E ripeto, in questo momento ci sono varie ipotesi, c'è chi dice che a questo punto il mercato è deluso perché non ha vinto Romney, altri appunto sostengono, altre agenzie sostengono che il mercato si stia interrogando sui rischi del fiscal cliff. Faccio solo notare che lo si sapeva anche ieri, lo si sapeva anche la settimana scorsa, che entro il 31 dicembre l'America deve andare a bloccare questo debito, che ormai viaggia verso il 100% del PIL, con un deficit sopra il 10% del PIL. Per dare un'idea, noi in Europa non possiamo sforare nell'area euro il deficit oltre il 3% del PIL. I titoli, molto male Fiat, -6,20%, ST Microelectronics -5,90%, le banche, Popolare Emilia Romagna -4,20%, Popolare Milano -4%, Unicredit -3,60%, e il Banco Popolare perde il 3,30%, Ubibanca il 3,20%, Mediobanca il 3%. Ancora segnalo che ST Microelectronics appunto perde il 6%, Mediaset il 3%, Intesa San Paolo il 2,80%. Chi guadagna? Solo Autogrillo 0,12%. Anche l'euro è leggermente in indebolimento sul dollaro a 1,27,66. Parleremo di America nella seconda ora del programma, parleremo in apertura invece di Italia, di molta Italia, e di questa cosa che obiettivamente ci lascia molto perplessi, ossia c'è un accordo bipartisan a questo punto per ammorbidire, mettiamola così, ammorbidire quelle che erano le regole molto dure per i comuni che non sapevano gestire i propri conti e avevano un bilancio vicino al dissesto finanziario. Molti sindaci, a cominciare dal primo cittadino di Napoli, De Magistris, che ha scoperto, l'abbiamo raccontato lunedì scorso, 850 milioni di euro di buco, andando a rivedere tutto un insieme di cose, avevano chiesto che fosse ammorbidita la norma, altrimenti saltavano per aria. Insomma, il governo e la maggioranza hanno deciso di cancellare tutte le norme introdotte con i provvedimenti del federalismo fiscale, che prevedevano, a fronte di un dissesto finanziario dichiarato da parte di un comune e dichiarato dalla Corte dei Conti, l'arrivo del commissario e una sorta di procedura fallimentare. Ne parleremo più avanti, perché io capisco, e ha ragione De Magistris nel dire: io sono arrivato al comune, ho pulito il bilancio e tutto un insieme di, lo ha spiegato molto bene Fabio Pavesi lunedì, quello che fanno alcuni comuni, e cioè crediti che vantano nei confronti di, per esempio, la tassa sui rifiuti, le multe non pagate, continuano a essere messi a bilancio come crediti da riscuotere e quindi in attivo, cose che devono entrare, quando ormai sai benissimo che non li riscuoterai più quei soldi, un po' come quando le banche hanno dei crediti che dichiarano inesigibili e allora devi metterli nei passivi. Il giochetto di continuare a dire io devo riscuotere 100 milioni di tasse sui rifiuti e li metto in bilancio come soldi che mi entreranno anche quando sai che ormai non li riscuoterai più, è un giochetto che prima o poi finisce. E nel caso dei comuni, De Magistris, per esempio a Napoli, facendo un'operazione di trasparenza sui conti, si è accorto che c'è un buco di 850 milioni di partite che continuavano a essere messe nelle voci attive, ma quando vanno messe nelle passività. Detto questo, ammorbidire quelle che sono regole per la gestione dei comuni non ci sembra una gran cosa in questo momento, ne parleremo in apertura, e poi chiaramente anche tutti gli altri temi, a partire anche dall'allarme lanciato oggi dalla Commissione europea su crescita, o meglio non crescita in Europa e rischio disoccupazione. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. L'oro è a 1724 dollari, il petrolio 87 dollari. Qualcuno dice ma Obama ha vinto di ampio margine, ma insomma a me non sembra. Ha perso nel 2008, Obama prese 365 grandi elettori, oggi non arriva oltre a 3,32, non so, no. McCain ne prese 173 nel 2008, Romney ne ha presi 206, ha strappato i democratici l'Indiana e il North Carolina. Non mi sembra sta vittoria schiacciante. E dicevo, l'agenzia di rating Fitch ha detto: attenzione, Obama o taglia il deficit o perderà la tripla A, già l'ha persa con Moody's se non ricordo male, la perderà con Standard & Poor's, la perderà anche con noi, ossia anche con l'agenzia di rating Fitch. Tutti i leader europei a congratularsi con Obama, anche Angela Merkel, siamo insieme contro la crisi, Mario Monti. Continuerà la cooperazione con l'America, tra noi c'è sintonia, Obama capisce l'Europa, è bello lavorare con lui. E nel frattempo però vediamo se capiamo anche noi l'Europa. Ericsson ha tagliato 1550 posti di lavoro in Svezia. Il colosso finanziario olandese ING, il conto arancio per chi volesse capire, ha annunciato che taglierà 2350 posti di lavoro. Ha avuto un crollo degli utili, scesi da 1 miliardo e 7 a 600 milioni di euro. In Grecia è il secondo giorno di sciopero generale, tutto è fermo, il paese è paralizzato. In Spagna la produzione industriale è calata per il 13° mese di fila, è una contrazione anche doppia rispetto alle attese, dimostrazione che la cura così dura e pura sta mettendo in ginocchio anche la Spagna oltre che la Grecia, ma non voglio tornare su queste polemiche. Meno 7% la produzione industriale in Spagna per il 13° mese di fila in calo, contro un 3,5% atteso. Mentre tutti si congratulano con Obama, Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, dice: attenzione, anche l'economia della Germania inizia a risentire dell'impatto della crisi del debito in Europa. La recessione economica rischia di raggiungere anche la Germania. I rischi di un collasso dell'area euro sono rientrati. Molti paesi hanno fatto progressi straordinari, aggiunge Draghi. Ma attenzione che la situazione di crisi, recessione toccherà anche la Germania, e poi ha definito i rischi di un'inflazione molto bassa. In effetti non mi sembra questo il problema dell'Europa. Questo nel giorno in cui l'area euro diffonde il dato sul 2012, tutta l'area euro chiuderà in recessione, meno 0,4%, vi sarà una timidissima, pallida ripresa nel 2013, più 0,1%, la vera crescita arriverà nel 2014, e dagliela, sempre a spostare in là l'asticella, più 1,4%, speriamo che sia la volta buona. Il PIL italiano, questo già ce l'ha detto l'Istat, comunque quest'anno farà meno 2,3%, l'anno prossimo meno 0,5% e più 1,1% nel 2014. Il nostro debito salirà quest'anno e anche nel 2013, sarà al 126,5% del PIL quest'anno, al 127,5% l'anno prossimo. Il deficit nostro invece resterà sotto il 3% quest'anno, al 2,9% e al 2,1% nel 2013. L'Italia sarà vicina al pareggio strutturale, un pareggio e quindi il rigore sui conti che costa caro non solo in termini di crescita ma soprattutto in termini di occupazione, perché tutto questo, anche per mantenere questi conti sempre così in ordine, la disoccupazione in Italia nel 2013-2014 sarà ampiamente sopra l'11%. Un ascoltatore mi dà un consiglio, dice: guardi Barigioni, si dia il gufo da solo. Sì, io ho letto le notizie della Commissione Europea, ammetto di essere anche un po' stanco perché la diretta stanotte è finita all'alba, per cui vabbè, mi do il gufo da solo per le notizie che ho letto. Sì, si può anche, il conduttore ha il diritto e l'autorità anche per darsi il suo gufo. No, non vuole arrivare il gufo. Speriamo che serva. Intanto, venendo all'Italia, il ministro Passera ha detto: l'Italia ce la può fare alla grande, e gli automatismi salariali non tengono conto delle differenze di settore, non fanno bene alla produttività. Sentiamo questo passaggio del ministro. Al tavolo della produttività c'è il tema del come legare all'effettiva produttività e non necessariamente soltanto all'andamento dell'economia nel suo insieme, in modo tale da premiare quei contratti di secondo livello che legano gli aumenti all'aumento della produttività. Quindi assolutamente auspicabile, ogni settore ha sue caratteristiche. Noi siamo dell'idea che sia necessario premiare fiscalmente gli effettivi aumenti di produttività e che gli automatismi che non tengono conto della differenza di settori o soprattutto di aziende all'interno del settore non siano utili per rendere più competitivo il nostro paese. E poi i conti dell'INPS: non c'è nessun allarme e rischio sui nostri conti, ha detto il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. La Corte dei Conti ha fatto una fotografia e non solo il presidente dell'INPS ma anche il governo hanno detto che non c'è alcun tipo di allarme, e noi ci auguriamo che Mastrapasqua abbia ragione. Ancora, per quello che riguarda le notizie che arrivano dall'Italia, abbiamo ricevuto una nota e una telefonata, ma giustamente, dall'ufficio stampa dell'aeronautica militare per la notizia che ieri ci aveva segnalato un ascoltatore, con una lettera molto dettagliata in cui veniva riferito anche l'ordine, l'ordinativo di 12 BMW 525 diesel pagate, secondo quanto diceva l'ascoltatore, in tutto 700.000 euro, 10 erano le macchine. È un po' diverso, l'aeronautica ci ha tenuto a precisare. Noi adesso vi leggo quella che è la nota dell'aeronautica militare, che ci ha scritto dopo averci telefonato: l'aeronautica non ha mai richiesto o acquisito Maserati, Questo è vero, nel senso che le 19 Maserati blindate non le ha richieste la Maserati, le ha richieste il Ministero della Difesa, lo precisa anche la stessa nota dell'Aeronautica, la Direzione Generale degli Armamenti Terrestri. Vabbè, sempre 19 Maserati blindate sono arrivate, ho capito, non l'ha chiesta l'Aeronautica, ma non si capisce perché i generali italiani, oddio, va bene la scorta, va bene tutto, ma insomma la Maserati blindata, vabbè. L'Aeronautica non ha mai richiesto dei Maserati, conferma invece l'Aeronautica di aver chiesto, avviato un programma per sostituire 10 vetture di questa classe e ha ordinato 10 BMW 525 diesel con servizio di manutenzione completa per una durata di 6 anni attraverso un contratto Consip. Due vetture sono state assegnate all'Aeronautica, le altre 8 sostituiranno altrettante vetture del parco mezzi della difesa al raggiungimento dei termini di dismissione delle stesse. Tutto bene, resta la mia domanda se era necessario, non voglio fare il dolciniano, ordinare 10 BMW 525 diesel per i colonnelli dell'Aeronautica. Questo chiedo, si possono utilizzare, secondo me, anche macchine italiane, facciamo pubblicità, un Alfa Romeo che costa un po' di meno, con il massimo rispetto per BMW, non capisco perché una BMW 525 diesel, no, e tra l'altro non viene smentita la cifra che ci ha fornito questo ascoltatore che ha materiale obiettivamente corretto, 700.000 euro per 10 macchine. Abbassare più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag più. Noi restiamo sull'Italia, vi continuerò da ragionamenti su Wall Street, comunque non va bene, peggiora almeno 2,5% in questo momento l'America, ne parleremo dopo. E saluto e ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, comuni italiani, arriva l'aiutino, ho spiegato prima che è vero, il nuovo sindaco non ha colpe nella gestione precedente. Quello che è successo a De Magistris, ma non per difendere De Magistris, preciso che non me ne frega nulla di De Magistris e neanche di Obama, non sto tifando Romney, ho solo detto che la vittoria è stata una vittoria un po' più non così netta come 4 anni fa e questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti, ma dicevo, è vero che un sindaco arriva e magari scopre che il sindaco precedente ha fatto il giochetto contabile di continuare a mettere come voci attive nel bilancio, come entrate future, soldi che non ti entreranno più perché quelle multe non ti verranno pagate, perché in alcuni comuni non si arriva nemmeno al 50% di riscossione, perché la tassa sui rifiuti non ti verrà pagata, perché hai creditori che magari sono falliti e tu continui a metterle come future entrate. De Magistris, nel caso di Napoli, è arrivato a Napoli e ha detto no, queste sono passività, non le rivedrò più questi soldi, e si scopre un buco di 850 milioni. Come Napoli c'è anche Catania, Messina, Parma, Alessandria, mi sembra che abbia un problema analogo. Il governo e la maggioranza hanno deciso di cancellare tutte le norme introdotte con il federalismo fiscale che prevedevano, a fronte di un dissesto finanziario dichiarato dalla Corte dei Conti, l'arrivo del commissario, la procedura fallimentare per il pagamento dei creditori e, se necessario, nuove tasse per i cittadini, nonché l'ineleggibilità degli amministratori ritenuti responsabili. Che cosa hanno deciso con maggioranza, con patto, unanime e corale, governo e appunto Parlamento? Sì, allora no, se dissesti arriva ancora il commissario, il problema è che ti aiutano prima che tu sia costretto, tu comune sia costretto a dichiarare il dissesto e ti danno, diciamo, una sorta di anticipo che poi tu devi ripagare con un piano di rientro quinquennale, bla bla bla, per evitare il dissesto. La situazione è ancora più complicata perché, per esempio, è vero che a Napoli, che tra l'altro adesso rischia di passare il Natale al buio perché si è scoperto ieri, il consorzio che fa l'illuminazione pubblica ha 40 milioni di credito dal comune di Napoli, ci mette tutti i mesi 1,6 milioni per pagare l'energia elettrica, non riceve niente indietro dal comune di Napoli. Ieri hanno alzato la mano, hanno detto finiamo i soldi, quindi noi spegniamo tutto. Ma nel caso di Napoli, per esempio, il sindaco De Magistris sta sottolineando comunque ancora adesso la sua fiera contrarietà a questo meccanismo di aiuto, ma non per il meccanismo di aiuto, perché il meccanismo funziona un po' come gli aiuti europei della BCE, cioè tu prendi dei soldi, però in cambio devi garantire devi garantire l'equilibrio corrente, cioè di non avere più appunto quegli squilibri che dicevamo prima, e in più se devi garantire questo equilibrio corrente devi aumentare le entrate, devi farlo attraverso l'aumento di tasse e tariffe, e il comune di Napoli, De Magistris, stanno facendo una fiera lotta contro, diciamo, questo tipo di imposizione centralista, diciamo così, almeno nella ottica delle dichiarazioni del sindaco. In realtà però pare di poter dire che, per esempio, i conti del comune di Napoli non permettano altra strada al momento, perché il buco di 850 milioni è vero, ma è probabilmente parziale, perché i residui a me quello che dà molto fastidio è che la sanzione politica viene di fatto cancellata in questo modo, che voglio dire, nella vita, perché devi pagare, io farei pagare anche, per esempio, visto che parliamo del ponte sullo stretto, se si scopre che fra due anni dobbiamo pagare 300-400 milioni di penali, uno stato serio dovrebbe portare a chiamare come azione di responsabilità tutti quelli che hanno firmato questi accordi che poi sono svantaggiosi per lo Stato stesso e per i cittadini. Ma nel caso di un amministratore comunale, regionale, mi interessa poco, oltre alla sanzione civilistica e quindi anche la chiamata in responsabilità o in corresponsabilità, la punizione politica è forte. Se io ti dichiaro ineleggibile dovunque, sia come sindaco, sia come consigliere regionale, sia come deputato, beh, insomma, no, se tu pensavi di far carriera politica sperperando risorse pubbliche, un po' ti seguo le gambe. Questo non capisco, però lì, voglio dire, tutti d'accordo nel correre in aiuto ai vincitori, come diceva Flaiano, prego. Non c'è il minimo dubbio. Va detto, ad aggravare la situazione, che finora delle sanzioni per i comuni male amministrati o anche per le regioni in extra deficit, bla bla bla, hanno funzionato molto molto bene le sanzioni a carico dei cittadini, cioè gli aumenti di tasse. Quello funziona sempre. Ma l'altro, di sanzioni di ineleggibilità non c'è stato nemmeno un caso. Lo sanno bene, per esempio, i cittadini del Lazio, i cittadini del Molise, che stanno pagando salassate che hanno pagato, nel caso del Lazio stanno pagando ancora Molise, Campania e così via, salassate di addizionali regionali all'IRPEF o le imprese con la super IRAP, per pagare deficit sanitari che ovviamente non hanno fatto né le imprese né i cittadini. Loro pagano sulla premessa, diciamo così, sul presupposto che di aver ricevuto servizi troppo cari e quindi, come dire, al di sopra delle loro possibilità. Io non so se la sanità, anzi so che non è così, se la sanità del Lazio o del Molise si possa definire sopra la qualità, diciamo. Mia, Molise che ha il costo per regione più alto d'Italia. Esatto, e che non garantisce più alcuni farmaci perché costano troppo. Il problema è che gli amministratori locali, invece in Molise si rifanno le elezioni e gli amministratori locali di destra e sinistra, chi se ne frega, si ricandidano per la xesima volta senza essere, non dico fermati, ma nemmeno minimamente scalfiti da queste sanzioni federaliste che sono rimaste sulla carta. Allora, vediamo se ho ben capito, perché mi sto già risvegliando nonostante la lunga notte americana. Allora, qui tutti pronti a correre in soccorso dei vincitori o dei forti, forti con i deboli, anzi deboli con i forti e forti con i deboli. Perché? Perché scompare la ineleggibilità. Io dico, ma porca miseria, almeno se hai creato un buco finanziario al tuo comune, devi scomparire politicamente, vai a fare altro, vai a coltivare pomodori, sperando di non far danni anche lì. E invece questa scompare. E invece vengono aumentati i fondi che paghiamo noi, perché da 100 a 200 euro a cittadino, messi a disposizione dei sindaci in difficoltà, con il rischio che il sindaco in difficoltà sia lo stesso sindaco della giunta precedente, quindi è lui che chiede aiuto per una cosa che ha creato lui, no? È come se io tirassi un sasso contro casa mia e poi chiedessi a qualcuno all'assicurazione di pagarmi l'atto vandalico. Cioè, è una cosa bellissima questa, no? Non ci si crede. Naturalmente l'arrivo del commissario è ancora previsto, ma su questo mi sembra che i comuni di Napoli, Alessandria, Parma, ma anche Catania, sia il comune che la provincia, Foggia, Palermo, Isernia e Rieti potranno tirare un bel sospiro di sollievo. Gianni? Sì, ci sono casi ancora più divertenti, ci sono casi di revisori dei conti che da revisori dei conti bocciano il bilancio del comune perché non è in equilibrio, eccetera, eccetera, poi diventano assessori al bilancio e votano lo stesso bilancio che da revisori hanno bocciato, quindi voglio dire, succede lì, di tutto. Nella vita uno può anche avere crisi di identità, la mattina si sveglia una cosa, la sera un'altra. Beh, chi non cambia mai idea è un cretino. Chi non cambia idea, no? È un cretino, qua abbiamo un paese fatto di amministratori locali tutti... un passo del premio Nobel a questo punto. Bene, siamo contenti che i comuni di Napoli, Alessandria, Parma, Catania, Foggia, Palermo, Isernia e Rieti respirino, più tasse per i cittadini da 100-200 euro a disposizione dei sindaci in difficoltà, politicamente oltre che civilmente non paga nessuno, in modo che tu ti puoi anche ricandidare, magari non ti ricandidi al comune perché un po' di memoria ce l'hanno, poi ricandidati alla regione. Magari, o, come o magari vai direttamente in Senato alla Camera, come è successo per esempio certo. A chi ha portato alle note vicende, facciamo un caso a caso, appunto il comune di Catania. Vabbè, 300 milioni ci è costata ripianare. E il sindaco di quel periodo è serenamente transitato in Senato. Beh, giusto, insomma, se tu riesci a fare 300 milioni di euro di buco a Catania, vuol dire che qualche qualità ce l'hai ed è giusto che tu lavori e operi anche su base nazionale. Grazie a Gianni Trovatti. Adesso le 24 ore non resta che, prima di passare alla borsa e all'America, che almeno discute tra Obama e il fiscal cliff, mandare il solito invito molto francese. Voglio che vi alziate proprio adesso, andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso ci occupiamo di borse, quindi entriamo nella pagina di economia internazionale, ossia la pagina americana, perché a mio avviso la cosa più sorprendente, al di là appunto di una vittoria non di ampio margine, e devo dire che questo molti l'avevano anche previsto, la cosa che più sorprende è la reazione della borsa, anche perché questa mattina le borse europee andavano bene, non benissimo, ma positive. Prima dell'apertura americana è iniziato il peggioramento, poi è stato un continuo calo. Adesso l'America perde il 2,5%, Milano ha perso il 2,5%, Parigi ha perso il 2%, Francoforte meno 2%, Londra meno 1,60%, quindi la borsa. Con casi poi pesanti sui bancari e su Fiat. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dunque, qui abbiamo avuto in Europa le indicazioni della Commissione Europea, tutte negative su disoccupazione, PIL e anche PIL dell'Unione Europea. E forse in Europa hanno pensato più queste, che poi si è aggiunta anche Wall Street. Assolutamente sì, tant'è che questa mattina in prima battuta i mercati sono partiti bene, poi pian piano si è un po' smorzato l'entusiasmo, comunque erano positivi, poi hanno girato al ribasso soprattutto a metà giornata, dopo che sono state diffuse le previsioni della Commissione Europea, che peraltro ha diffuso non solo le previsioni per quest'anno ma anche per l'anno venturo, che preoccupano ancora di più. Per l'anno venturo, per l'Europa, la Commissione Europea ha messo in conto un progresso del PIL della zona euro dello 0,1%, mentre a maggio prevedeva un progresso dell'1%, come dire che anche il 2013 sarà un anno molto difficile. Piazza Affari è stata sin da subito la peggiore, visto che la Commissione Europea ha rivisto al ribasso le stime per il bel paese. Quest'anno il PIL cederà il 2,3% e anche il prossimo anno, secondo la Commissione, metterà a segno un meno 0,5%. Poi nel pomeriggio Wall Street ha aperto male, ma questo era un po' da mettere in conto sentendo gli operatori, visto che Mitt Romney aveva promesso agevolazioni finanziarie e regole meno severe alle società finanziarie, quindi insomma c'è chi di sicuro è rimasto deluso, soprattutto chi opera a Wall Street. Beh, non è un mistero, l'abbiamo raccontato più volte, che Wall Street si sia schierata in maniera quasi compatta con Mitt Romney. Abbia elevato anche i fondi per la campagna elettorale che invece aveva dato quattro anni fa, nel 2008, a Obama. Mi riferisco alle grandi banche d'affari americane. Non è piaciuta a Wall Street quella timida, secondo noi timidissima, riforma della finanza americana, ma per quanto timida, Romney aveva promesso che l'avrebbe levata, e comunque questo non ha garantito l'appoggio di Wall Street a Obama. Probabile che forse anche qualcuno che aveva scommesso più su Romney vada a vendere oggi anche qualche banca d'affari. Però, ripeto, in Europa pesa molto di più il quadro, lo scenario molto negativo, molto preoccupato, disegnato dalla Unione Europea e anche dalle dichiarazioni di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, che ha detto: attenzione, la recessione colpirà anche la Germania, perché la crisi dei debiti sovrani avrà un impatto anche sulla Germania. Andiamo sui titoli. In aumento oggi gli spread, Eleonora, e quindi male le banche. Di banche però parliamo tra un minuto. Vorrei che iniziare con Fiat, meno 6,65%, peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Sì, tra l'altro Fiat è subito andata male sin dalle prime battute, continuano i report, diciamo, molto critici nei confronti dell'azienda. Tu non vuoi parlare di report, d'altra parte nell'ultima settimana, dopo che Marchionne ha presentato, diciamo, le prospettive per il futuro della società e ha inoltre presentato i conti del terzo trimestre, ogni giorno quasi esce un report critico. Oggi è stata la volta di Deutsche Bank, che di nuovo ha puntato il dito sulla situazione finanziaria, sul fatto che la società brucia cassa e ne brucerà ancora di più, soprattutto se dovranno essere fatti investimenti per il lancio di nuovi modelli. Quindi Fiat oggi ha perso un altro 6,6%, peraltro anche la stessa Deutsche Bank ha individuato un prezzo obiettivo per le azioni molto più basso dell'attuale prezzo, che è pari a 3,51 euro. Di nuovo in diretta, allora Eleonora, Autogrill, Pirelli, Telecom ed Enel. Autogrill è più 0,3%, il titolo è andato in contro tendenza, è da ieri che le azioni sono particolarmente gettonate sull'ipotesi, che è tornata un po' alla ribalta visto che era già circolata anche nei mesi scorsi, che la società possa alla fine scorporare la divisione Travel and Retail. Poi mi ha detto quale altro titolo? Telecom Enel. Telecom, grande attesa per il consiglio di amministrazione di domani, che analizzerà i conti dei primi 9 mesi e poi conti che verranno diffusi venerdì mattina. Ma soprattutto il mercato si attende novità sull'eventuale progetto di scorporo della rete, che potrebbe essere analizzato tra i membri del consiglio di amministrazione, oltre che ovviamente sul dossier relativo alla famosa cessione di La 7, di cui tanto si parla. Sì, tanto si parla e poco si vede. Enel e Enel Green Power. Enel Green Power, direi, sì, perché scommetteva su lì Obama. 3%. Lì un po' Obama c'entra. Esatto, anzi questa mattina i titoli andavano molto bene, erano in rialzo, e visto che è uno dei pochi titoli che beneficia proprio della rielezione di Obama, pochi titoli ovviamente in Italia. Questo perché? Perché la società opera nell'energia verde, un tema molto caro al presidente americano e che dovrebbe appunto portare avanti anche nel suo secondo mandato, quindi si scommette su appunto sul fatto che il presidente americano emetta di nuovo una serie di incentivi all'economia verde, cosa di cui potrebbe beneficiare l'azienda stessa. Quindi ha registrato un calo meno evidente rispetto a quello del listino. Ancora tra i titoli, diciamo, oltre a Fiat, Enel, Telecom, Pirelli, Autogrill, le banche. Beh, lì è tornato a salire lo spread, attenzione. Abbiamo la Popolare Emilia Romagna meno 4,70, Popolare Milano meno 4,40, Unicredit meno 4,30, UbiBanca meno 3,5, come il Banco Popolare, Intesa San Paolo meno 3,35% e Mediolanum meno 3,20. Cito anche Finmeccanica meno 2,80% e Atlantia meno 3,44%. RCS. Detto che si è allentata un po' anche la tensione dei giorni scorsi, si parlava infatti della famosa aggregazione eventuale, sono solo indiscrezioni di stampa, con Intesa San Paolo. Ieri sera Bazzoli è sceso in campo e ha rotto un po' gli indugi e ha praticamente non apertamente smentito, ma comunque sicuramente anche Ghizzoni, anche il numero uno di Unicredit, aveva definito come del tutto strampalata l'ipotesi di una fusione tra Intesa San Paolo e Unicredit, visto che stavi parlando di questo, ti abbiamo perso per un attimo nel collegamento, Eleonora. Sì, l'ipotesi avanzata dalla stampa, devo dire, in primis da un articolo di Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, che diceva sostanzialmente che per evitare il rischio che le banche che capitalizzano in borsa così poco e hanno valori molto bassi, inferiori diciamo ai loro asset, vengano scalate le due principali banche italiane, Unicredit e Intesa San Paolo, vengano scalate dall'estero, da fondi sovrani o da comunque stranieri, l'ipotesi poteva essere una specie di arrocco quasi come a scacchi, fondere Intesa San Paolo e Unicredit e rendere e creare una banca troppo grande per essere comprata. La smentita prima di Ghizzoni e poi, come ti ricordavi, anche di Giovanni Bazzoli. Rizzoli, Corriere della Sera invece. Sì, anche in questo caso invece sono sempre ipotesi di stampa che ipotizzano un nuovo piano molto duro per la società, si parla anche di esuberi per i giornalisti per oltre 100 persone, ovviamente è tutto da vedere, intanto oggi i titoli hanno perso il 3,6%. Per quello che riguarda l'andamento in borsa cito anche tra i migliori e i peggiori, però Sintesi più 21%, CDC Point più 5,20%, PMS più 4,70%, e la Banca Popolare di Spoleto più 3%, come il Banco di Sardegna sul risparmio più 2,80%. Lo dico perché oggi sono tra le pochissime banche a andar bene. Invece tra i peggiori Premuda meno 8,33%, Fiat l'abbiamo detto, SNAI meno 6,92%, e di ST Microelectronics abbiamo detto comunque perde il 6,30%. Grazie Eleonora Michele, Radio Corriere del Sole 24 Ore. Devo chiedere scusa agli agricoltori italiani, perché prima nel dire nel commentare criticamente la legge che adesso ha eliminato l'emendamento che ha eliminato la incompatibilità e incandidabilità di quei sindaci o amministratori che dovessero far saltare i bilanci dei comuni che gestiscono, ho detto almeno in quel modo non sarebbero più rimasti a governare la città o le province o le regioni, sarebbero andati a fare qualcos'altro, magari raccogliere pomodori. Molti agricoltori mi hanno scritto dicendo: scusatemi, la campagna è una cosa seria, l'agricoltura è una cosa seria, tenetevi voi piuttosto in radio. Avete ragione, non volevo creare un danno all'agricoltura italiana. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda e ultima parte di Focus Economia. Dopo esserci occupati dei temi di casa nostra, ahimè, ricordo l'accordo tra governo e maggioranza che ci lascia molto perplessi, che elimina molte delle sanzioni anche di carattere politico per i sindaci che si ritrovano, gli amministratori che dissestano i conti di una città, mi dispiace dirla così ma non ho altri modi per raccontarla. E dopo aver parlato di una borsa che in Europa ha reagito male alle previsioni e gli stimi diffuse dalla Commissione europea, recessione meno 0,4% in tutta l'area euro, modestissima ripresa più 0,1% l'anno prossimo, ma non in Italia che farà meno 0,5%, una ripresa un po' più significativa dell'1,1% nel 2014 e una disoccupazione in aumento anche l'anno prossimo. E poi hanno reagito, le borse hanno preso atto di una Wall Street che continua a essere molto debole, meno 2,34% in questo momento. Adesso concludiamo il programma per quello che riguarda oggi con i prossimi 4 anni di Barack Obama. Ha vinto, alcuni dicono non è vero che abbia vinto di stretta misura, erano previsti sondaggi ancora più alla pari, va bene, insomma vincere ha vinto, con sicuramente un calo rispetto al 2008, conquistò 365 grandi elettori, oggi siamo a 332, McCain nel 2008 si aggiudicò 173 grandi elettori, Romney ne ha avuti 206 e poi ha strappato ai democratici gli stati dell'Indiana e del North Carolina. Ma poco fa è uscita, qualche minuto fa, l'agenzia Moody's, dopo che già era uscita l'agenzia di rating Fitch, dicendo sostanzialmente o stabilizza l'America, stabilizzerà il suo debito che viaggia verso il 100% del PIL, al 90 e passa, o perderà il voto. Già Standard & Poor's ha levato la AAA al debito americano. Non è un caso che a poche ore dalla conferma di chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, le agenzie di rating inizino, dopo aver sospeso prima del voto, diciamo, ogni giudizio, iniziano a mettere i paletti, o alcuni dicono la spada di Damocle, sui prossimi 4 anni di Barack Obama. Sì, abbiamo voluto anche mettere un Jimi Hendrix dannata che suonava l'inno americano. Intanto però ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato l'editorialista del Corriere della Sera, nonché autore di un libro, La Valanga, dalla crisi americana alla recessione globale, Massimo Gaggi, buonasera. Buonasera a voi. Ti sentiamo un po' basso, adesso provvediamo in regia ad alzare il volume. Grazie anche a Enrico Sasson, che è direttore del mensile della Harvard Business Review Italia. Buonasera anche a lei, Sasson. Buonasera. Allora, Massimo, tu già oggi lo scrivi sul Corriere della Sera, ancora risultato non noto. Fatemi fare solo un inciso, un ringraziamento, visto che questa notte la diretta alle 5.30, 5.20 si è saputo della vittoria di Barack Obama. Un ringraziamento a Daniele Biacchessi e Laura Bettini, a tutti i tecnici, allo staff di Radio 24 per la lunga diretta di questa notte, che poi è proseguita anche lungo tutta la mattinata. Chiusi i ringraziamenti, Massimo, non è un caso che le agenzie di rating nell'arco delle ultime 3 ore abbiano iniziato a ricordare a Barack Obama attento, non che devi morire, ma attento che entro il 31 dicembre devi trovare un accordo con il Congresso per ridurre il debito, altrimenti loro abbasseranno il voto, ma aggiungo io, scatterà il cosiddetto fiscal cliff, quindi il precipizio fiscale, un taglio delle agevolazioni e degli incentivi e un aumento delle tasse che potrebbe far calare il PIL americano del 5%. Massimo. Sì, come tu hai ricordato quello che ho scritto stamattina, e in quel pezzo appunto io dicevo ancora al buio, perché ancora non si trovano i risultati, che chiunque sarebbe stato presidente avrebbe dovuto comunque affrontare questa nota, che l'altro fronte comunque dovrà collaborare, certo. Abbiamo vissuto anni di spaccatura verticale nel Congresso, lavorare in modo bipartisan è diventato più difficile, però nessuno dei due fronti, ovviamente soprattutto il governo, ma anche chi sta all'opposizione, ha interesse a sfasciare quello che ho chiamato la gallina dalle uova d'oro, cioè l'America in questo momento da anni si regge anche su un meccanismo finanziario molto favorevole, come sapete, cioè gli investitori, i risparmiatori prestano denaro al tesoro e addirittura pagano per prestare denaro al tesoro, perché ottengono in cambio un tasso di interesse che crea la inflazione. E questa cosa qui è evidentemente un meccanismo basato sulla fiducia che il sistema americano dà a tutto il mondo. È chiaro che se dopo la prima scossa di 1 anno e mezzo fa, quando ci fu la battaglia sul tetto del debito pubblico, ci fu il primo downgrading degli Stati Uniti, se continuiamo su questa china, è chiaro che questa fiducia prevede a meno, quindi questa è una cosa che l'America non si può permettere, quindi qualche compromesso dovranno raggiungerlo. Chiaro il ragionamento di Massimo Gaggi, e cioè a questo punto non sarà solo Obama a dover mediare, ma anche il Congresso spaccato in due, e quindi la parte repubblicana ha dovuto trovare un accordo, perché il cliff, il precipizio, c'è non solo per il presidente ma c'è per tutta l'America. Vorrei sentire su questo anche Enrico Sasson, ma anche capire da voi due se ci troviamo di fronte a un Obama indebolito perché la vittoria è meno netta rispetto a 4 anni fa, o in realtà questo appuntamento, questa scadenza del 31 dicembre 2012 non sarà un vantaggio per il presidente, perché potrà permettergli di andare a chiedere e fare maggiori pressioni sul Congresso per arrivare a un accordo, se no sarà il disastro, il precipizio. Dunque, Enrico Sasson, sei d'accordo che comunque la Casa Bianca dovrà mediare e anche il Congresso dovrà arrivare a un accordo? C'è chi ipotizza che per esempio la tassa sui ricchi potrebbe essere sopra il milione di dollari all'anno e non sopra i 250 mila dollari all'anno, Ed è un Obama più indebolito o in realtà paradossalmente questa scadenza, questa spada di Damocle potrebbe avvantaggiarlo? Ma io credo che dobbiamo ragionare un pochino in maniera un po' ampia, vale a dire, noi prima abbiamo sentito le note di Jimi Hendrix, avremmo potuto sentire anche quelle di Bruce Springsteen che ha fatto il concerto per Obama, ma Obama non ha vinto grazie a Michelle e non ha vinto grazie a Bruce Springsteen, ha vinto perché la sua proposta ha convinto più della metà degli elettori americani che lo Stato che lui vuole è uno Stato che ha delle caratteristiche di maggiore solidarietà rispetto a quella di Mitt Romney, quindi qui c'è già una scelta di base che indica qualche cosa di molto preciso, vale a dire una vicinanza della maggioranza degli elettori al programma del Presidente. Ricordiamoci anche questo secondo punto, che Mitt Romney ha sfidato Obama, ha perso, diciamo, abbastanza di misura, ma come tutti i suoi predecessori, tutti gli sfidanti che hanno perso, nel momento in cui vince il presidente, da quel momento diventa il suo presidente, vale a dire c'è una compattezza nel paese che certo poi ha dei momenti conflittuali all'interno del confronto nel congresso, ma rimane che alla fine le soluzioni si sono sempre trovate anche in passato. Quello che voglio dire è che esiste una compattezza che impedisce, diciamo, di arrivare a quel tipo di paralisi decisionale che si vede in molti paesi a partire dal nostro. Questo significa una cosa, a mio parere, significa che Barack Obama avrà la forza e verrà appoggiato dal Congresso per trovare una soluzione da qui alla fine dell'anno per evitare il famoso fiscal cliff, che altro non è che il fatto di dover mettere mano a un problema da molto tempo rinviato, che è quello del debito pubblico. Naturalmente non si risolve in un attimo un debito pubblico del 100%, noi ne abbiamo un'esperienza assolutamente diretta e anche micidiale, ma negli Stati Uniti questa cosa potrà venire favorita anche dal fatto che esiste una convergenza della banca centrale, che della Federal Reserve, che ha finanziato tutto sommato quel poco di ripresa che c'è stato fino adesso e che continuerà a farlo, quindi da questo punto di vista esiste ancora una compattezza negli Stati Uniti che dà fiducia a Barack Obama. Massimo Gaggi, altri due fronti oltre al debito e al deficit ci chiedono di spiegare di nuovo fiscal cliff, vuol dire che, ripeto, entro il 31 dicembre o si trova un accordo tra la Casa Bianca e il Parlamento americano, cioè il Congresso, per tagliare le spese e anche aumentare le tasse, quindi le entrate, o se no questo parte in automatico perché in America il debito sta viaggiando verso, non lo è ancora, il 100% del PIL, e soprattutto molti sanno che l'America non può continuare a girare le decisioni finali stampando moneta, come spiega prima bene anche Massimo Gaggi, stampando moneta e mettendo col quantitative easing debito che poi fa comprare la sua banca centrale, insomma tenendo molto basso anche il dollaro. Questo ha funzionato per un po', ma non si può andare avanti così. E Massimo Gaggi, dicevo, altri due fronti però riguardano il rapporto, scusatemi in termine, con la globalizzazione, cioè l'America, come anche in Europa, deve affrontare quello che è un rischio declino come paese industriale, e nello specifico un nuovo equilibrio nei rapporti economici con la Cina, perché è inutile nascondersi che quando la Cina ha il 35-40% del debito americano, il problema non è solo di rapporti politici, ma anche e soprattutto economici. Forse aggiungendo anche una riforma di Wall Street e della finanza, che ha girato le spalle a Barack Obama, un po' più incisiva di quella molto timida fatta da timido, come lo chiamo io, timido Geithner. Massimo. Ma per quanto riguarda quella finanziaria sono sicuramente d'accordo con voi, la Dodd-Frank è probabilmente sufficiente, non abbiamo ancora vissuto situazioni di crisi, di tensione come quella di 4 anni fa, se si presentasse una situazione del genere non sono del tutto sicuro che le cose andrebbero molto, molto, molto meglio di come sono andate nel 2008, mi pare che i circuit breakers non so quanto potranno funzionare, e però nonostante questo quella riforma è stata presa dai mercati, da Wall Street come una specie di museruola, vediamo anche oggi la reazione della borsa perché appunto si temono i regolamenti di Obama eccetera, ma comunque qualcosa in più su quel fronte andrà fatto. Per quanto riguarda la questione della globalizzazione del commercio, sicuramente quello che aveva chiesto in qualche modo Romney tenterà di farlo anche Obama, adesso ce l'ha già nel rapporto con la Cina, adesso ci aveva già provato nei suoi contatti negli anni scorsi con scarsi risultati, quello di ottenere qualche concessione in più per quanto riguarda i controlli cinesi sui sussidi eccessivi o illeciti delle proprie aziende, sulle contraffazioni e tutti questi altri problemi.